Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Avete mai provato a contare quanti film sono stati realizzati a partire da romanzi? Tantissimi, un'infinità. Ma siamo sicuri che tutti, proprio tutti i grandi romanzi, si possano trasportare sullo schermo? O ce n'è qualcuno che incredibilmente si rifiuta di lasciarsi tradurre in immagini, quasi avesse una coscienza o una sorta di incantesimo a proteggerlo? La puntata di oggi di Destini Incrociati racconta l'incontro tra due persone che in realtà, non si sono mai fisicamente incontrate. Il loro incrocio è avvenuto nel tentativo quasi impossibile di portare sul grande schermo uno dei romanzi più importanti della letteratura europea. Hey, è Don Quixote de la Mancha! È proprio il romanzo seicentesco di Miguel Cervantes, Don Quixote. Due grandi registi decideranno di affrontarlo. Noi sappiamo con sicurezza che il nostro mondo dall'inizio del XX secolo è stato osservato da vicino da una razza aliena. I più cinefili fra voi avranno riconosciuto questa voce. È Orson Welles. Orson Welles. Per alcuni il più grande regista della storia del cinema. È il nostro primo personaggio di oggi. Le parole che gli abbiamo sentito pronunciare risalgono al 30 ottobre 1938, quando Welles mostra al mondo intero il suo incredibile genio. Per il network radiofonico CBS interpreta un adattamento di La guerra dei mondi, il romanzo di H.G. Wells, realizzato da uno sceneggiatore americano che si chiama Howard Koch. Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbia mai assistito. Aspettate un momento, qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità. Qualcuno o qualcosa. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi. Sono occhi? Potrebbe essere un volto? Potrebbe essere... L'adattamento prevede che l'invasione dei marziani venga raccontata attraverso un finto notiziario che interrompe costantemente il palinsesto abituale della radio. La performance di Orson Welles è così realistica che l'America piomba nel panico. Per il giovane artista arriva il successo, come commenta ironicamente lui stesso. Furono le dimensioni della reazione ad essere sbalorditive. Sei minuti dopo che eravamo andati in onda, le case si svuotavano e le chiese si riempivano. Da Nashville a Minneapolis la gente alzava invocazioni e si lacerava gli abiti per strada. Cominciamo a renderci conto, mentre stavamo distruggendo il New Jersey, che avevamo sottostimato l'estensione della vena di follia della nostra America. Per quello che abbiamo fatto, sarei dovuto finire in galera, ma al contrario, sono finito a Hollywood. E così Welles arriva ad Hollywood. Mentre il suo talento brilla anche a teatro, la RKO, una casa di produzione americana, gli offre un contratto per 3 film come regista e sceneggiatore, lasciandogli completamente carta bianca sul piano artistico. Può avere il pieno controllo sulla produzione, fatto rarissimo nella Hollywood classica. I primi 2 progetti falliscono miseramente e non vedono la luce. Il terzo invece va fino in fondo. È Quarto potere. Rosabella. Rosabella è la mitica slitta su cui si chiude il leggendario primo film di Welles. Un'opera eccezionale, barocca, eccessiva, smisurata. Segna la storia del cinema per i limiti estremi cui spinge il concetto stesso di regia. Si inquadra subito il personaggio. Un personaggio bigger than life, bigger than Hollywood. You may be homely in your neighborhood, but if you think that you can be an actor, see Mr. Fact. He'd make a monkey look good. Within a half an hour, you'll look like Tyrone Power. Hooray for Hollywood. Ad Hollywood, si sa, le capacità artistiche spesso si misurano in dollari. Così, se Quarto potere da un lato è un film unanimemente riconosciuto come straordinario, dall'altro porta a pochi profitti alla casa di produzione. Per Welles inizia il calvario. Hollywood è un quartiere dorato, adatto ai giocatori di golf, ai giardinieri, a vari tipi di uomini mediocri e a cineasti soddisfatti. Io non sono nulla di tutto ciò. L'orgoglio degli Emerson, La signora di Shanghai, l'adattamento del Macbeth, film straordinari ma economicamente fallimentari, chiudono la permanenza hollywoodiana di Wells. Nel frattempo, si sposa con una delle donne più desiderate di Hollywood, Rita Hayworth. La Hayworth e Wells si sposano nel 1943. Per Wells è la seconda moglie. Divorzieranno 5 anni dopo, nel 1948. Conclusi altri impegni come attore, Wells vola in Europa. Lo aspetta ancora un adattamento da Shakespeare, L'Otello. Hollywood negli anni 50 non è esattamente un luogo confortevole per lavorare. Se Wells è vittima delle logiche del profitto dello studio system, decine di altri attori, registi e autori sono costretti alla fuga, vittime del maccartismo, la caccia ai fantasmi del comunismo che il senatore McCarthy scatena in tutto il paese. I traditori non sono gentiluomini, amici miei. I comunisti non comprendono il concetto di libertà. Parola di Joseph McCarthy. E così Charlie Chaplin viene allontanato dagli States, Elia Kazan e Walt Disney costretti a denunciare alcuni colleghi, Robert Taylor e Gary Cooper interrogati e torchiati. Anche questa è Hollywood. Wells fugge per ben altri motivi. La sua personalità titanica non è compatibile con le esigenze degli studios. Così, ad eccezione di una brevissima parentesi americana nella quale gira l'infernale Quinian, Wells stabilisce il centro del suo lavoro in Europa. Definitivamente. È qui che incrocia il Don Chisciotte di Cervantes. Addio, Santo Don Chisciotte della Mancia! È il 1955. Wells accetta di girare per la televisione spagnola un piccolo sceneggiato televisivo di mezz'ora sul Don Chisciotte. Gira con una truppa esigua, solo 6 persone, tra cui la nuova moglie italiana. Inizia a stendere il soggetto, ma la maledizione di Cervantes cala su di lui. Si dice che lo stesso Cervantes abbia inserito nel suo romanzo una sorta di avvertimento verso chi volesse scriverne un seguito, nel tentativo di dissuaderlo. Beh, sembra che in qualche modo questo avvertimento valga anche per il cinema. Wells stende un copione. Lo fa piuttosto in fretta, dato il budget ridotto all'osso. Ma poi il romanzo di Cervantes lo avvolge, lo imprigiona. Lo costringe a infinite riletture e lo spinge a ingrandire il progetto, fino a perderne il controllo. Un grande regista come Orson Welles non poteva non essere attratto da un libro come il Don Chisciotte. Non solo per il suo amore per la Spagna e per la cultura europea, ma anche perché, se ci pensate bene, la lotta estenuante di Welles contro il sistema hollywoodiano per affermare le proprie idee, la continua ricerca di budget adeguati a sostenere i propri progetti, ricordano le lotte del Cavaliere della Mancia contro i mulini a vento. Per cimentarsi con il romanzo di Cervantes, insomma, bisogna in qualche modo riconoscersi nei suoi eroi. Wells lo fa e si perde. La sceneggiatura del Don Chisciotte si allunga. Wells inizia a girare il mondo per completare la sua opera. Gira in Spagna, poi ancora in Messico, poi va a Roma, sempre con la stessa esilissima troupe di 6 persone e con un cast ridotto all'osso che comprende 4 attori. Francisco Reighera nella parte di Don Chisciotte, Akim Tamiroff in quella di Sancho Panza, oltre a Patty McCormack e allo stesso Orson Welles nella parte di se stesso e del narratore. Cominciano a passare gli anni. Il film non giunge a conclusione. Mi sono così perdutamente innamorato del mio soggetto che l'ho ingrandito via via e ho continuato a girarlo man mano che guadagnavo dei soldi. Si può dire che il film sia cresciuto mentre lo facevo. È un po', voi lo sapete, quello che è accaduto a Cervantes, che cominciò a scrivere una novella e finì per scrivere il Don Chisciotte. È un soggetto che non si può più lasciare una volta che lo si comincia. Il Don Chisciotte è l'unico film nella carriera di Orson Welles che il cineasta abbia finanziato interamente da solo. Un film che sarebbe costato, se ben pianificato, al massimo $100.000, finisce per costare un patrimonio e anni di lavoro. Per finanziarlo, Wells accetta una serie di ruoli e di lavori che non avrebbe mai accettato. Passano 14 anni. I soldi scorrono, il tempo pure, gli attori invecchiano, il film non finisce, la trama ormai non la sa più nessuno, solo Wells. Ma forse neanche lui, che poco prima di abbandonare l'impresa, dichiara: mi mancano solo un paio di settimane di riprese. Due settimane e il mio film sarà finito. Ma sarà un film che non piacerà a nessuno, nessuno lo apprezzerà. Sarà un fiasco. Per poterlo far uscire, dovrò girare un film di cassetta. Altrimenti sarò sommerso dalle critiche. Quelle settimane di riprese ci saranno, ma il film non viene terminato e il progetto viene abbandonato dal regista, che non lo completerà mai. Nel 1985 Orson Welles muore. In eredità ci rimangono un'infinità di rullini di girato. Si potrebbero montare tre film, ma il regista numera il girato secondo un ordine e un codice incomprensibile, quasi volesse, come Cervantes, dissuadere i posteri dal completare la sua opera, come ricorda François Truffaut. Don Quixote, le cui riprese sono durate più di 20 anni, è stato lasciato volutamente incompiuto da Orson Welles, che l'ha girato e fotografato da solo un po' in tutto il mondo, forse in 16 mm, forse in 35 mm. Don Quixote era diviso nel montaggio in tanti piccoli rullini, perché se qualcuno li avesse trovati non avrebbe dovuto capirne la conseguenzialità, che conosceva solo lui ed era regolata da un codice che soltanto lui conosceva. La ragione che Orson Welles offre per spiegare l'incompletezza del film è nella scena dell'esplosione della bomba H, che distrugge tutto e tutti, eccetto Don Chisciotte e Sancho Panza. Si è creata attorno a questo film, attraverso gli anni, una specie di leggenda. Non sarebbe sorprendente immaginare che Welles preferisse restarne l'unico spettatore. In realtà, a partire dagli anni 90, sono stati fatti molti tentativi di ricostruzione dell'opera incompiuta di Welles, alcuni decisamente riusciti. In questi si può apprezzare il tentativo di fondere la trama del romanzo con l'ambientazione dei nostri giorni. È da queste ricostruzioni che un altro regista americano degli anni 90, appassionato lettore del romanzo di Cervantes, decide di partire per portare sullo schermo il suo Don Chisciotte. Nei sopralluoghi del deserto spagnolo della Mancia, probabilmente, vede aggirarsi anche il fantasma di Orson Welles. Forse lo mette in guardia. Noncurante di ciò, continua a cullare il suo sogno del Don Chisciotte. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati parliamo di un incontro a distanza, un incontro ideale che avviene tra due registi americani che si cimentano con un romanzo impossibile da portare al cinema, il Don Quixote di Miguel Cervantes. Il primo è Orson Welles, che vede trasformarsi un semplice sceneggiato televisivo di mezz'ora per un canale spagnolo nell'ossessione della sua vita, un'ossessione che durerà 20 anni. Il secondo è Terry Gilliam. Terry Gilliam, che nasce a Minneapolis nel 1940, è uno dei registi più visionari, talentuosi e immaginifici del cinema americano. La sua carriera può essere divisa nettamente in due parti. Nella prima, Gilliam fa parte di un gruppo comico irriverente e scatenato che tra la fine dei 60 e gli 80 imperversa prima alla radio e poi al cinema con irresistibili parodie e straordinari film comici. I Monty Python. Oh, bonsoir, monsieur. Come andiamo oggi? Meglio. Meglio? Meglio avere un secchio, sto per vomitare. La gravità di Creosote, uno dei personaggi più esilaranti di Il senso della vita che avete appena sentito, può trarre in inganno. La comicità iconoclasta dei Monty Python è in realtà di grande spessore intellettuale. Tutti i laureati, che ad Oxford, che a Cambridge, fondono il proprio approccio British con uno scatenato spirito di contestazione. Gilliam è l'unico americano ed è la mente visiva del gruppo, il genio dietro le straordinarie scenografie e le animazioni dei Monty Python. Beh, vi ho detto dei preliminari. Sì, signore. Sì. Ah, bene, se tutti conosciamo i giochi erotici preliminari, senza dubbio saprete dirmi qual è lo scopo di tali giochetti preliminari. Biggs? Non lo so. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Più o meno a metà degli anni Ottanta, i Monty Python si separano e per Gilliam inizia una straordinaria carriera da regista che ha da subito un'analogia con quella di Wells, il braccio di ferro perenne con lo studio system. Film come Brasil, Le avventure del barone di Munchausen, L'esercito delle 12 scimmie nascono nonostante dissidi e dissapori con le major. Il mio cinema si basa su una contraddizione. È indipendente nell'anima, ma dal punto di vista visivo necessita di budget maledettamente alti per essere realizzato. La leggenda del re pescatore del 1991 fa in qualche modo comprendere che le atmosfere donchisciottesche, mixate con la modernità, si addicono particolarmente al genio di Gilliam. Così, proprio in quegli anni, il regista appassionato lettore inizia a coltivare l'idea di ritentare l'impresa fallita da Wells. Iniziai a pensare al Don Chisciotte proprio all'inizio dei 90. Avevo steso un primo progetto e trovato un produttore, ma poi, a causa di un altro tentativo che uno studio stava compiendo con Robin Williams nelle vesti di Sancho Panza, abbandonai l'idea, ma solo temporaneamente. Sì, temporaneamente, perché nel 1998 Gilliam riprende in considerazione la sfida. È ormai stufo dei problemi e delle costrizioni hollywoodiane, vola in Europa, come Wells, per cercare in qualche modo di vendicarlo. Sarà una coproduzione tutta europea tra Spagna, Francia e Gran Bretagna. Il budget si aggira sui 32 milioni di dollari. È una cifra altissima per una produzione europea. A differenza di Wells, Gilliam pianifica tutto nei minimi particolari. Sa che Don Chisciotte è un osso duro e non vuole lasciare nulla al caso. Effettua decine di sopralluoghi. Riesce a ottenere gli interpreti che desidera, e cioè Johnny Depp sarà Sancho Panza, Jean Rochefort Don Chisciotte. La sceneggiatura attualizza il mito del Cavaliere della Mancia, trasformando Sancho Panza in un pubblicitario catapultato nel passato e finito a fare lo scudiero di Don Chisciotte. La produzione riesce inoltre a ottenere per una settimana il completo blocco del traffico della città di Toledo, la disponibilità della cattedrale di Saragozza che dà il permesso alla troupe di entrare con i cavalli. Riesce a ingaggiare Gabriella Pescucci per disegnare splendidi e sontuosi costumi ispirati alle incisioni di Gustave Doré. È tutto pronto, ma la maledizione di Cervantes è di nuovo in agguato. Tra poco. A destini incrociati. E anche tu pensavi nell'abbandono. E anche tu ha muerto mi illusione. En vez de maldecirte con justo encono, yo en mis sueños te como. Y en mis sueños te como de bendiciones. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è arrivato nella pianura desertica di La Mancia, in Spagna. È il 2000. Stanno per iniziare le riprese di L'uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam. 40 anni prima aveva provato a portare sullo schermo le avventure del Cavaliere Errante della Mancia Orson Welles, ma dopo quasi 20 anni di lavorazione il film è rimasto incompiuto. C'è una maledizione sul romanzo di Cervantes e si sta per abbattere anche su Gilliam. Tutto è pronto per l'inizio delle riprese. Nel cuore della Mancia il cast e la troupe danno il primo ciak. regna entusiasmo ed eccitazione, come confida direttamente il protagonista, Johnny Depp. Sono molto felice di partecipare a questo nuovo progetto di Terry Gilliam. Sarà un grande film. Tutto è stato curato nei minimi dettagli. È vero, tutto è stato curato nei minimi dettagli. Ci sono anche due filmmaker che girano il backstage del film. Ma sin dai primi giorni qualcosa inizia ad andare storto. La produzione ha commesso un errore madornale. Ha scelto una location nei pressi di una base NATO e non se n'era preoccupata. Ora è in corso un'esercitazione che durerà un mese. Il rumore dei jet è assordante. Tutto il set con le pesanti scenografie deve essere spostato. Questo causerà una perdita di tempo e di soldi. Anche il regista ne è consapevole, ma non sembra troppo preoccupato. Sì, è stato un errore clamoroso. È una seccatura. Ma abbiamo già trovato una soluzione. Tutto andrà per il meglio. Le riprese ripartono. Ma purtroppo Terry Gilliam si sbaglia. Tutto inizia ad andare a rotoli. Pochi giorni dopo che il set è stato trasferito in una nuova location, una fortissima tempesta si abbatte sulla troupe. Questo forte vento sta spazzando via le scenografie, danneggiando i materiali, sta trasformando il terreno in una palude. La troupe deve sbaraccare di nuovo, salvando il salvabile. Tornerà qui quando il tempo sarà migliorato, ma ormai piove da una settimana. Le condizioni meteo migliorano, ma la produzione non fa in tempo a contare i danni che un sopralluogo sulla zona delle riprese svela un problema enorme. Il vento e l'acqua hanno completamente trasformato il paesaggio. Tutto ciò che è stato girato diventa inutile perché non si potrebbe mai raccordare con le nuove riprese. Bisogna ricominciare da capo. È terribile, davvero terribile. Stiamo lottando con un destino avverso che sembra non volerci far fare il film. È assurdo. È assurdo, ma è tutto vero. Sembra quasi che anche Gilliam si sia trasformato in Don Chisciotte e stia lottando con i suoi mulini a vento per trasformare la fantasia in realtà. Ma purtroppo è una battaglia impossibile. Passano pochi giorni. Le riprese a fatica riprendono. Improvvisamente, però, Jean Rochefort si sente male. L'attore francese ha un'infezione alla prostata. Deve rientrare subito a Parigi per curarsi e subire un intervento. Che dire, cercheremo di superare anche questa. Gireremo prima tutte le scene senza di lui e poi lo aspetteremo. Il problema è che lui è Don Chisciotte e quindi ha una parte non esattamente trascurabile. L'attesa di Rochefort non fa in tempo a completarsi. La Pathé, la casa di produzione, entra in contenzioso con la compagnia d'assicurazione che copre il film. Dopo qualche giorno di tensione, la produzione viene chiusa, definitivamente. I due cineasti incaricati di filmare il backstage producono uno straordinario documento cui assegnano il nome di Lost in La Mancia. Un documentario eccezionale che testimonia di questo naufragio produttivo, di questa incredibile maledizione. A distanza di 40 anni, quindi, nelle desolate pianure di La Mancia, i destini di Orson Welles e di un altro regista americano, Terry Gilliam, si incrociano nel vano inseguimento di una trasposizione cinematografica del romanzo di Cervantes. Anche le conseguenze per le rispettive carriere, in qualche modo, accomunano i due registi. Per Welles, l'inseguimento ossessivo a Don Chisciotte diventa un chiodo fisso, cui non saprà più rinunciare, nemmeno portando avanti altri progetti di sicuro interesse. Per Gilliam, il Don Chisciotte mancato è il definitivo punto di rottura con gli studios hollywoodiani. Quando tornerà alla regia nel 2005 con i fratelli Grimm e l'incantevole strega, il produttore lo costringerà a modificare, ritoccare e rimontare il film a suo piacimento, imbrigliandolo e tenendolo sotto controllo per tutta la durata delle riprese. Dopo la parziale riabilitazione di Dr. Parnassus, film apparso sugli schermi quest'anno e comunque funestato dalla morte a riprese non ultimate di Heath Ledger, Gilliam ha deciso di tornare alla carica con Don Chisciotte. Il film pare si farà, con le riprese che avranno inizio quest'anno e con un'uscita prevista nel 2011.